acqua! Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona Pasqua a tutti i nostri ascoltatori. Anche se sono le ultime ore della domenica, gli auguri continueranno, la Pasqua continua e questa sera abbiamo con noi in studio Giovanni Gavazzeni. Buona Pasqua, Giovanni. Buona Pasqua a tutti e buona Pasqua a te. Soprattutto Giovanni Gavazzeni ci segue ormai da tempo lontano, è difficile dire quanti anni ci segue, l'abbiamo scelto come critico di riferimento, ricordiamo nipote d'arte, ma anche, diciamo così, persona che come poche conosce la musica e i segreti. Diciamo che fa pasticci nella cosiddetta critica musicale. Diciamo che tra i critici musicali, insomma, si difende. Allora Giovanni, mi sembra che ci sia un anniversario che dobbiamo innanzitutto ricordare, ma anche proprio questa sera, perché lo merita. Direi che è una delle figure più belle che ci siano nella storia della musica e del pensiero, cioè quella di Albert Schweitzer, che è morto esattamente 50 anni fa, nel 1965. Non è un santo perché era un protestante, ma però merita tutta anche l'attenzione religiosa, insomma. Beh, insomma, diciamo che è stato avviato dalla famiglia agli studi, come fanno i pastori protestanti, quindi alla teologia e soprattutto a suonare l'organo, che era la sua grande passione. E essendo alsaziano è andato a studiare a Parigi, dove c'era un grandissimo organista, Charles-Marie Vidor, che era già, come dire, uno delle punte di diamante della passione bachiana, che poi è stata quella dominante la vita di Schweitzer. E la cosa, l'insegnamento meraviglioso era che quello che uno realizza in tutta una vita, cioè diventare professore di teologia all'Università di Strasburgo, pastore di una chiesa meravigliosa, Saint-Nicolas, dove aveva predicato Calvino, dove c'è un organo Silbermann meraviglioso, e per lui non era sufficiente. E quindi aveva capito che la sua vocazione era di aiutare gli altri, doveva ridare al prossimo quello che aveva ricevuto. Ovviamente gli avevano detto i missionari che non avevano bisogno di un teologo perché non serviva a niente, e lui si è iscritto a 30 anni alla facoltà di medicina e lo guardavano come un pazzo i colleghi professori docenti. E lui, che non aveva nessuna attitudine alla professione medica, si è laureato, ha fatto concerti d'organo in tutta Europa, perché era già un organista meraviglioso, affermato e anche grande conoscitore di organi, e saggista. Il suo libro del 1908 su Bach, poeta musicista, è un libro perennemente di riferimento, e ha raccolto soldi per comprare medicinali, ed è partito nel 1913 per un viaggio incredibile nell'Africa equatoriale francese. E immaginatevi che nelle sue memorie dice che quando è arrivato le popolazioni locali erano dominate dagli stregoni, che davano veleni per poter poi guarire, eccetera eccetera, e lui si è giocato tutto operando di ernia un locale e guarendolo. E da lì è nata la leggenda di questo grande Oganga bianco, il Grand Docteur. Onore ad Albert Schweitzer, che meriterebbe forse un'eccezione. Noi facciamo anche un appello alla sera di Pasqua, proprio per essere ricordato tra i santi non cattolici. Assolutamente. Insomma. Ma poi l'altro grande insegnamento è che nella chiesa dove, in un altro paese dell'Alsazia, dove il padre era pastore a Günzbach, i cattolici e i protestanti si dividevano la stessa chiesa, cioè si alternavano nelle funzioni. E lui diceva: io fin da bambino, in una terra storicamente dove si erano ammazzati papisti e luterani, invece lì si conviveva pacificamente. Poi lui ha studiato le filosofie indiane ed è diventato anche un teorico meraviglioso della non violenza e del vegetarianismo. Certo, e accanto allora al venerato nome di Albert Schweitzer, veramente diciamo così rappresentante di un'umanità superiore sotto ogni aspetto, beh, ricordiamo allora una sua esecuzione di Bach. Certo, dopo il conferimento del premio Nobel decise di incidere sul vecchio organo del padre a Günzbach dei suoi brani favoriti di Bach. Qui ne sentiremo uno, di un meraviglioso preludio corale, e questo disco divenne un best seller incredibile. Oggi si può comprare su YouTube, eccetera eccetera, non è stato ristampato fisicamente ma si trova con molta facilità, è diventato, come dire, un evergreen. E lui, che era un uomo forse ingenuo, aveva preso contatti con il capo della Columbia americana e con il capo della Voce del Padrone inglese, e non sapeva che erano acerrimi concorrenti. Ma questi, sapendo che il grande Schweitzer voleva fare un disco, si sono messi subito d'accordo, si sono spartiti il mercato, e con quei proventi lui ha portato altri soldi alla sua opera, perché tutto quello che faceva lo faceva per portare fondi, certo, all'ospedale di Lambaréné. Eh sì, aveva ragione quando diceva che in Bach c'è tutto, c'è la gioia, c'è il dolore, ci sono le lacrime, ci sono le gioie, e soprattutto quando si suona la sua musica c'è un senso di edificazione straordinaria. Pensate bene che quando era nella giungla aveva rinunciato a suonare l'organo, cioè la cosa che amava fare di più. Aveva un pianoforte con i tasti di zinco e suonava questo pianoforte nella notte mentre animali gli saltavano dal verticale, eccetera, eccetera. O negli intervalli del pasto durante la dura giornata suonava il clavicembalo ben temperato, e aveva deciso che, siccome la musica, insomma, si conservava male, aveva imparato a memoria i suoi maestri, Vidor, Reger e soprattutto Mendelssohn, che amava moltissimo. Del resto, un uomo come Schweitzer è irripetibile, rimane un insegnamento. Per quello rimane... per noi è santo comunque, perché ci insegna che al di là della meravigliosa scienza, del fatto che è diventato insegnante, pastore, eccetera, eccetera, e musicista, c'è anche qualcosa da fare per gli altri. E che... forse la sua lezione di etica. Assolutamente, assoluta. Quella, il famoso rispetto per la vita, lui dice l'etica, come dire, rivolta agli altri esseri umani non ha senso, deve essere estesa a tutte le creature dell'universo, con anche la coscienza che delle volte per salvare una vita se ne devono uccidere delle altre, e quindi bisogna riscattarsi continuamente per quello che si è costretti a fare, quelli che gli antichi chiamavano scelta tragica, no? Il bivio, si fa questo, si fa quello. Mi sembra che sia uscito un, diciamo così, un cofanetto importante di Grumieux, questo violinista che, insomma, aveva ancora delle cose da dirci, da spendere, certo, eccetera, eccetera. Con questa raccolta almeno la dimostra. Giovanni. Ma il maestro Colin Davis, che ha inciso con Grumieux tutti i concerti di Mozart, ha reinciso perché li aveva già fatti con lo storico mozartiano Bernard Paungartner, diceva che quando si sentiva suonare Grumieux non si sentiva Grumieux che suonava Mozart, ma si sentiva solo Mozart, che secondo me è un bellissimo complimento. E Grumieux non solo incarnava questa grande eredità della scuola franco-belga, perché era belga, ma aveva questa particolare predisposizione alla musica da camera e soprattutto a quella sensibilità che ci vuole particolarissima per suonare Mozart. E secondo me le sue incisioni, soprattutto delle sonate accompagnate da quella che, visto che siamo in una trasmissione santificata, io la vedo come una specie di Madre Teresa di Calcutta del pianoforte, che è Clara Haskell. Assolutamente. Ecco, in questo caso si è creata una empatia fra questi due personaggi, secondo me straordinaria, fa sì che queste incisioni siano dei riferimenti continui. Questo è un cofanetto che Decca ha dedicato di tutte le incisioni di mozartiane di Grumieux, che sono bellissime. Fra l'altro lui era assistito da uno dei più intelligenti e bravi produttori, il nostro italiano Vittorio Negri, che era anche direttore d'orchestra, che ha lavorato anche come direttore d'orchestra con Grumieux, che era un producer straordinario, e soprattutto alla Chaux-de-Fonds c'era una sala di registrazione dove lavoravano meravigliosamente, e Vittorio Negri ha potuto ben conoscere questo personaggio, che era severissimo e assolutamente, come dire, inappuntabile durante l'esecuzione, poi invece era un bel mattacchione durante la vita. Delle volte si divertiva quando passava per le strade a suonare i campanelli come i bambini, e poi era invece un illustrissimo professore del conservatorio di Bruxelles. La fama di Grumieux è stata tale che il re dei Belgi Baldovino lo ha nominato barone, e quindi non è che l'ha nominato perché, ma l'ha nominato perché ha riconosciuto l'aristocrazia della sua arte, proprio è quello che si può dire un violinista aristocratico, nel pieno senso della parola. Qualità, devo dire, che comincia a scarseggiare, o quantomeno ce n'è poca. Eh sì, perché oggi sono più altre qualità tecniche che contano, e poi il gusto si evolve. Io sono sempre per evitare le comparazioni fra artisti di epoche molto distanti, perché sono cose diverse, certo, per tenere un artista all'interno del suo tempo, ecco, quello sì. In studio con noi c'è Giovanni Gavazzeni, critico musicale del giornale, ma non soltanto. Anche della Rinata in veste editoriale Amadeus. Possiamo ricordarlo perché abbiamo celebrato qua, certo, gli anniversari di Amadeus. E poi ricordiamo anche Nipote d'Arte, perché i primi compitini sono stati corretti dal nonno Gian Andrea, quindi almeno abbiamo avuto un buon insegnante. Un buon insegnante. Ma certo, al di là di questo e al di là delle presentazioni, noi l'abbiamo scelto come amico e come critico di riferimento. E dobbiamo guardare un po' avanti, Giovanni, perché il 5 aprile è già ora di pensare al maggio fiorentino. Il maggio ormai comincia sempre prima, diciamo, no? E comincia sempre in aprile, non è più maggio, ma insomma è sempre molto atteso, e soprattutto con il nuovo trasferimento nella tanto, come dire, strombazzata Opera di Firenze, che non ho avuto ancora il piacere di sentire dal vivo come suonano le opere. L'acustica del vecchio teatro comunale non era delle più felici, quindi mi auguro che questa sia perlomeno migliore, che aprirà il 27 di aprile con il Fidelio di Beethoven diretto da Zubin Mehta, che è il direttore di riferimento a Firenze ormai da quasi 30 anni, insomma, e che comincia con questa grande opera. Fra l'altro poi faranno un bel paniere di opere interessanti: il Candide di Leonard Bernstein, che dirige John Axelrod, Peleas e Melisande di Debussy, direttore Gatti, e il Giro Vivite di Britten, direttore Jonathan Webb. Quindi insomma abbastanza un panorama internazionale, come si usa a dire, un bel carnet di cose, e soprattutto, ecco, hanno una nuova iniziativa dal punto di vista editoriale molto molto lodevole, vale a dire quella di pubblicare le cose più belle dei loro archivi. E di conseguenza possiamo avere magari qualche chicca. Sicuramente. Intanto la prima la dedichiamo a uno dei padri della musica a Firenze, cioè il maestro Vittorio Gui, fondatore della Stabile Fiorentina, partecipante anche al primo maggio del 33. Insomma, viveva a Firenze, quindi una figura di grande riferimento per la città, che fece delle incisioni anche di repertorio sinfonico, perché Gui prediligeva il teatro, ma era anche un direttore molto stimato, un grande amante di Brahms, per esempio, e alla quale la città di Firenze deve tantissime cose, soprattutto in sede culturale, perché poi ha diretto, insomma, la famosa Medea con la Callas di Cherubini, che ha rimesso in piedi l'opera, prime di Spontini come La Vestale e L'Agnese di Hohenstaufen, delle opere di Verdi come La Battaglia di Legnano, di cui non si sentiva parlare da tempo. Era un direttore molto eclettico, sobrio, si teneva, diciamo, equidistante da Toscanini come dai virtuosismi favolosi di De Sabata, però era un direttore veramente molto molto molto solido, e soprattutto era preparatissimo culturalmente, che era una cosa piuttosto rara per la categoria direttoriale. Ed ecco che ritorna l'animo di Rossini, torna quella sua forza così eversiva, e soprattutto quello spirito che chiaramente si ascolta qua. Anche perché dovrebbe così alludere a una, come si dice, alla nascita di un paese, cioè la Confederazione Elvetica, quindi essere, diciamo, a un certo punto, nonostante Rossini non fosse amante delle rivoluzioni, quella è stata una, a un certo punto, una rivoluzione. Beh, era amico di Metternich, insomma, non diciamo che... Ma penso che era amico di qualunque regnante, qualunque aristocratico del suo tempo, erano tutti in ginocchio davanti a Rossini. Con Metternich andava d'accordo e fece anche delle cantate per la Santa Alleanza. Insomma, quelle gli sono costate parecchi rimprotti. Certo, qualche subbuglio popolare. Vivere nell'età di Napoleone, che cambiavano i padroni in continuazione, non era facile per gli artisti, C'erano dei politici però che riuscivano, come Talleyrand, che sapeva muoversi divinamente. È un genio assoluto. 13 giuramenti tutti traditi, quindi insomma niente da dire. Siamo passati, diciamo, adesso passiamo dall'amor sacro, abbiamo parlato di Bach e di Albert Schweitzer, abbiamo parlato di Rossini, Guglielmo Tell in fondo. E di Mozart prima, adesso passiamo all'amor profano. Perché sempre tenendoci a queste meravigliose pubblicazioni degli archivi storici del Maggio Musicale Fiorentino, è pubblicata per integrale la Traviata, diretta nel 1986 da Carlos Kleiber. Quindi tutti i kleiberiani del mondo, unitevi, perché c'è una nuova edizione, e secondo me molto più bella di quella in studio, perché è di una vitalità addirittura deflagrante. Si sente proprio l'elettricità che comunicava quel genio della direzione. Fra l'altro è un'edizione esemplare, perché dimostra come un grande direttore possa confezionare, non avendo a disposizione degli interpreti supersonici, confezioni su quello che ha a disposizione la sua lettura. In quel caso era una freschissima Cecilia Gasdia, era il tenore Peter Dvorsky e il baritono Zancanaro, e funzionano tutti a meraviglia. Con Kleiber. Con Kleiber, sì. A Firenze se lo ricordano ancora, qui tutti esaurito, quell'entusiasmo meraviglioso, ma finalmente possiamo ascoltarlo anche noi a casa e avere una dimostrazione di come veramente un'incisione dal vivo sia qualcosa di diverso, che trasmette dei valori completamente diversi. Diciamo che c'ha una carica che stimola, che in fondo si colgono alcuni aspetti. Ci sono magari delle piccole interferenze, delle piccole cose, ma per carità, quanta vitalità in più. E quindi rivolgo un appello alla Scala perché prima o poi renda disponibili l'Otello e la Bohème diretti da Kleiber, perché sono delle emozioni che vorremmo rivivere e insomma soprattutto comunicare alle generazioni che si affacciano così ad ascoltare che cosa sono le opere fatte e dirette da quest'uomo, ecco. In un tempo in cui, quando uno comincia a frequentare un teatro, rischia di diventare direttore d'orchestra. Con questi senza saperlo, magari. Direttori bambini o bambini direttori, non lo so. Vabbè, comunque, insomma, ogni polemica è bandita da questa trasmissione. No, siamo a Pasqua, possiamo quindi perdonare anche gli ex sovrintendenti, i sovrintendenti che non conoscono le opere, ecco, ne possiamo fare certo. Tutte. Ah, beh, ma non facciamo i nomi, però no, tutti beh, tanto lo sa saputo. Tutta Europa ormai. Bene. La grandeur ormai è stata scoperta. Sbugiardata. Nel famoso Maggio rossiniano c'è la prima ripresa moderna della Donna del Lago di Rossini diretta da Tullio Serafin, quindi diciamo che c'è, come dire, un panorama molto ampio e promettono di non fermarsi qui, quindi noi siamo solo contenti. Li aspettiamo, non possiamo fare altro. Ecco, aggiungiamo una cosa, di fronte a noi quindi ci sta l'apertura del Maggio, poi ci sarà il primo di maggio, ci sarà la Scala. Eh sì, comincia la kermesse di Expo e quindi si comincia con una Turandot e ascolteremo, io non ho mai sentito, il finale elaborato da Luciano Berio invece di quello elaborato da Franco Alfano e vedremo se ci convince o non ci convince, insomma. Certo, questo si ascolterà ovviamente più tardi e poi si darà spazio a tutte quelle iniziative che in qualche modo giungeranno proprio così a fiotti. E beh, insomma, poi con l'estate, se ancora non succede qualcosa di catastrofico. No, allontaniamo ogni cattiva previsione, bando a queste cose. Ecco, certamente i grandi appuntamenti sono questi e poi non dimentichiamoci che appunto qualche giorno fa lo abbiamo annunciato, è cominciato il Festival di Lugano che poi si protrarrà sino a giugno e quindi anche lì, insomma, di musica ce n'è. Certo, questo... direi che con la bella stagione anche per esempio c'è una manifestazione molto interessante che avviene ogni anno a Monte Carlo, fanno un 5 fine settimana, il Printemps des Arts, quest'anno dedicato a Bach, a Franco Donatoni e a Sibelius per il 150°, che consente appunto in questi fine settimana di ascoltare orchestre e di approfondire ovunque, insomma, perché poi si estende non solo lì nell'auditorio Ranieri, ma si estende in cattedrale, in altre meravigliose località della Riviera Francese. E quindi chi vuole può unire, come dire, il piacere della musica a un giro sempre alle spese della Costa Azzurra, insomma. Ma ecco. Sì, che poi ormai, mettiamola così, ormai si sono globalizzate in alto un po' ovunque. Certo. Allora, mi sembra che con questo abbiamo un po' tratteggiato i programmi futuri da questa sera di Pasqua. Rinnoviamo gli auguri a tutti gli ascoltatori, a coloro che ci seguono con affetto, a coloro che ci scrivono, a coloro che magari qualche volta ci correggono, perché c'è anche certamente qualcuno che dice ma io vorrei ascoltare, io dico... e diciamo ringraziamo tutti in questa sera di Pasqua, do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21, un cordiale saluto da Armando Torno e da Giovanni Gavazzeni.